Rassegna stampa Europa. Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa europea di Radio 24. Questa volta purtroppo ci dobbiamo occupare di Kiev e dell'Ucraina. Avevamo cercato, o forse anche solo fortuitamente, non ce ne eravamo occupati sabato scorso per la solita cronica mancanza di tempo, ma la cronaca naturalmente poi ci ha superato. E infatti non è della cronaca che voglio parlare, anche perché nei GR, nei giornali online troverete purtroppo magari anche dei bilanci aggiornati sugli scontri, sui feriti e sui morti. Cerchiamo di capire invece magari un po' il quadro più generale. E allora c'è un bel editoriale apparso su Le Monde, che internazionale di questa settimana, quindi in edicola da ieri, pubblica, che si intitola Il destino dell'Ucraina. Ve ne leggo una parte. Cullati dall'illusione che in Ucraina non sarebbe successo nulla prima della fine delle Olimpiadi di Sochi, gli occidentali si sono svegliati il 19 febbraio con le immagini del centro di Kiev messo a ferro e fuoco. Dopo tre mesi di scontri tra un'opposizione filoeuropea che si mobilita resistendo anche al freddo dell'inverno e un regime sostenuto da Mosca che fa la politica del tanto peggio tanto meglio, la violenza sembra aver raggiunto un punto di non ritorno. La morte di almeno 25 persone, e qui appunto vi dicevo la cronaca purtroppo quasi certamente ci supererà, però questo era il bilancio quando Le Monde e poi Internazionale sono andati in stampa, cioè venerdì, per lo più tra i manifestanti ma anche tra le forze di sicurezza, ha radicalizzato le posizioni. Oggi a Kiev nessuno si fida più di nessuno. E vi leggo l'ultima parte. La cacofonia nelle reazioni dei paesi europei alla drammatica svolta di questi giorni è vergognosa. Il problema non è fare all'Ucraina promesse impossibili da mantenere, ma riaffermare con forza e unità i valori alla base dell'Unione, per cui migliaia di ucraini si battono da mesi. L'Europa deve usare i mezzi di pressione di cui dispone, è il minimo che ci si aspetta dai suoi leader, perché sapete, la questione europea è fondamentale. Questa non è una crisi ucraina o completamente sganciata dall'Unione Europea. È stato tutto innescato, accelerato, magari aggravato dal fatto che l'Ucraina è lì in mezzo e non sa se compiere un processo di avvicinamento all'Unione Europea, eventualmente anche di diventare un paese membro, oppure di riavvicinarsi o rafforzare i legami con la Russia di Putin. E allora, sempre per cercare di capire, più che seguire la cronaca, che appunto i GR e gli approfondimenti della radio possono fare molto meglio di quanto possiamo fare noi leggendo cose che sono già state stampate, vi leggo invece una parte di un pezzo che si intitola La battaglia di Kiev, apparso sulla Gazzetta in Russia. Anche questo è stato pubblicato, lo trovate in versione integrale su Internazionale, e il senso dell'articolo è che ci sono appunto decine di morti nelle strade, il paese è spaccato, perché avevamo visto nelle settimane scorse come tra l'altro le proteste si fossero già estese oltre Kiev, l'opposizione non cede e il governo rimane incollato al potere. Vi leggo allora l'ultima parte. L'ideale sarebbe che la Russia e l'Unione Europea si accordassero per dar vita a un protettorato informale in grado di garantire la sopravvivenza dell'Ucraina nei suoi attuali confini, assumendosi la responsabilità che le élite locali non sono in grado di prendersi. Purtroppo lo scenario più probabile è un altro. La Russia e l'Occidente si accuseranno reciprocamente della crisi e si faranno guerra per procura, sostenendo le diverse fazioni ucraine, favorendo un'ulteriore divisione del paese. Questa visione geopolitica semplicistica genererà una crisi gravissima, i cui effetti si faranno sentire anche al di là dei confini ucraini. Naturalmente, speriamo che non sia così, però è importante, secondo me, cercare appunto di capire, di andare oltre la cronaca. Abbiamo visto un punto di vista europeo, quello di Le Monde, e un punto di vista invece russo, quello della Gazzetta, che è un giornale relativamente libero della Russia di Putin. E passiamo a un altro argomento, ma restiamo comunque collegati alla Russia, perché la Süddeutsche Zeitung questa settimana ha pubblicato un articolo, come anche altri giornali, ma la Süddeutsche Zeitung è forse quello più importante, per questo lo citiamo, un articolo un po' così tra le righe, oltre al fatto di cronaca un po' critico, per questo fuga di cervelli dalla Germania alla Russia. Sono infatti ci sono due manager di altissimo livello, cioè Peter Löscher, ex amministratore delegato di Siemens, e Josef Acker, Ackermann, ex presidente di Deutsche Bank, che andranno a lavorare in Russia e per un oligarca tra i più potenti, Viktor Vekselberg. Andranno a dirigere e a vigilare la Renova, che è appunto una delle società di proprietà di Vekselberg. Secondo la Süddeutsche Zeitung, il destino di questi due manager era già in Siemens, aveva seguito un destino un po' parallelo, avevano lavorato insieme in Siemens e forse appunto adesso lavorerà, forse anche per questo sono stati scelti da Vekselberg, che ha 56 anni, quindi insomma anche ancora abbastanza giovane, ed è uno dei russi più ricchi, con un patrimonio stimato da Bloomberg in 15 miliardi di dollari. A differenza di qualche altro oligarca, ce n'è più di uno che è caduto in disgrazia, non ha mai avuto contrasti con l'attuale presidente russo Putin. Restiamo in Germania e passiamo però alla Frankfurt Allgemeine Zeitung, sapete, il giornale che secondo me è sicuramente forse il più austero tedesco, e qui ci si occupa delle questioni che hanno visto un po' opposta la Bundesbank alla BCE, alle autorità europee. Il suo presidente, il presidente della Bundesbank, la banca centrale europea, Jens Weidmann, ha parlato alla Frankfurt Allgemeine Zeitung e ha spiegato che il suo timore è che la BCE, la banca centrale europea, possa diventare un ostaggio della politica, perché c'è questa previsione di acquisti illimitati di titoli di stati di paesi europei in crisi. Sapete, la Germania è contraria in generale a questi interventi che possono identificarsi come salvataggio. Per quanto riguarda la patrimoniale, dice Weidmann, ha ricordato che la Bundesbank non si è mai espressa a favore di una patrimoniale e che tuttavia all'interno di un'unione monetaria, in caso di necessità, bisognerebbe richiedere un prelievo ai contribuenti del paese coinvolti prima di chiedere aiuti ad altri. E passiamo a un'altra questione dolorosa e purtroppo lontana da una soluzione, che è quella dei nostri due marò prigionieri in India. Se ne è occupato l'Hindustan Times, uno dei più importanti quotidiani indiani in lingua inglese, e ha scritto che l'incidente, che risale al 2012, in cui i marò, noi li chiamiamo marò per semplicità, ma sono fucilieri della Marina Italiana, questa la loro qualifica esatta, e sono accusati di aver ucciso due pescatori, sapete, molto brevemente, in realtà i due pescatori sono morti, però l'ordine di sparare era perché i due marò erano lì per vigilare che la nave non fosse attaccata da pirati o terroristi, e quelli erano stati identificati come persone appunto a rischio. Il commento del quotidiano è completamente in alto mare, è un commento in cui si critica molto l'atteggiamento che ha avuto l'India e si scrive il quotidiano, questo Hindustan Times, l'idea è stata quella di aver dato, lo sbaglio è stato quello di aver dato, per esempio, oltre a molti altri, di aver dato all'Italia l'assicurazione che la pena di morte non sarebbe stata applicata, senza tener conto che se poi si cerca di formulare i capi di accusa in base a una legge antipirateria, spetterà al tribunale decidere se applicare o meno la pena massima. E questo è forse il passaggio più interessante. L'indecisione del governo, conclude l'Hindustan Times, ha portato a un'impasse diplomatica che ha spinto anche l'Unione Europea a manifestare preoccupazione. E come sappiamo l'Unione Europea si è mossa anche l'ONU in modo un po' così, un po' goffo, e adesso vedremo se appunto la diplomazia a questo punto dell'Unione Europea riesce a sbloccare questa situazione. Vi segnalo poi una notizia che riguarda, ci proietta già verso le elezioni di maggio, l'appuntamento con le elezioni europee. Secondo Euronews, infatti, i partiti socialisti di tutti i paesi che voteranno vinceranno di misura le elezioni europee. È una previsione fatta da Poll Watch, che ha messo insieme tutti i sondaggi provenienti da tutti gli stati membri. In base a questo studio, il gruppo dei socialisti e democratici otterrebbe 221 seggi, cioè 19 in più del Partito Popolare, il centrodestra europeo. Secondo Simon Hicks, che è professore alla London School of Economics e coautore di questa ricerca, i socialisti hanno ottenuto un pessimo risultato nel 2009, cioè nelle ultime elezioni. Sapete che per l'Unione Europea votiamo ogni 5 anni nei grandi stati membri, quindi solo recuperare in questi paesi significa già che stanno risalendo rispetto al 2009. A destra invece i partiti principali stanno perdendo voti a vantaggio dell'estrema destra, e lo si può vedere in molti paesi europei, e questo spiega perché il Partito Popolare non andrà bene nelle prossime elezioni. Il risultato delle elezioni sarà naturalmente determinante per scegliere il prossimo presidente della Commissione, che è un po' il premier dell'Unione Europea. La Commissione è il nostro esecutivo, e la grande incognita, ne abbiamo parlato tanto e spesso nelle scorse settimane, è legata all'euroscetticismo, che sicuramente condizionerà le priorità e il lavoro del nuovo Parlamento europeo. E qui c'è anche l'incognita su quanti voti poi prenderanno, perché sappiamo bene che i sondaggi sono una cosa, le intenzioni di voto sono un'altra ancora e il voto un'altra ancora. Vedremo poi quando si andrà veramente nelle urne quanto si rafforzeranno o magari si indeboliranno i partiti in generale di estrema destra o sinistra, che sono anche molto euroscettici. Questa era l'ultima segnalazione che riusciamo a fare. Un buon sabato e una buona domenica da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.